Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste italiane e straniere. Questa domenica mattina, io vorrei parlarvi di felicità per tutta una serie di motivi, perché di felicità si occupa questo mese 24, che come sapete è il nostro mensile, da venerdì è in edicola con il Sole 24 Ore, perché ha fatto molto discutere. Poi la sortita del premier inglese, che ha detto vorrei misurare il benessere, quindi in certo qual modo la felicità della popolazione inglese, non solo il loro benessere economico ma il loro benessere complessivo. Così anche si parla appunto di ricerche sul benessere in Francia. Già da tempo è stata istituita una commissione per elaborare degli indicatori che ci dicano come si può valutare la felicità, il benessere, lo stato di felicità di una popolazione. Allora, innanzitutto però vorrei cominciare in un modo assolutamente inconsueto. Prendo dai consigli per essere felici che trovate all'interno di 24. Hanno chiesto a 5 persone particolarmente esperte nel loro campo alcuni consigli per essere felici. È stato chiesto anche a un direttore d'orchestra, Gustavo Dudamel, direttore d'orchestra venezuelano, quali sono i brani musicali che servono per essere felici. Allora lui ne consiglia alcuni: Mahler, l'ultimo movimento della terza sinfonia, la nona sinfonia di Beethoven, tutta la quinta sinfonia di Schubert va bene perché è leggera, semplice e trasparente, poi Mozart con la sinfonia Praga, dice in questa lievità e trasparenza c'è sempre un tocco di follia, e infine Rossini, l'ouverture di Semiravide e l'ouverture della Gazza Ladra, perché qui virtuosismo, scintillio, gioco, forma di innocenza di un musicista, dice lui, che adoro. Noi, cercando di fare qualche cosa per rendere migliore la vostra giornata, ci siamo andati a cercare l'ouverture della Gazza Ladra. Ve ne facciamo sentire qualche secondo. Allora, questa era l'ouverture della Gazza Ladra, secondo appunto un esperto interpellato da 24, un metodo infallibile per la felicità, un consiglio per la felicità. Non so se voi avete dei brani più adatti, lui consigliava questo, vi abbiamo cercato questo. Ma quanto siamo felici? Perché la domanda in realtà rimbalza da un magazine all'altro, da una rivista all'altra questa settimana, in un modo un po' circolare e curioso, come sempre quando si creano queste coincidenze di tema. Su Vanity Fair, ad esempio, la rubrica affidata a Nando Pagnoncelli, in cui c'è sempre, come sapete, un sondaggio, è proprio dedicata alla felicità. Chiedimi se sono felice, e Pagnoncelli conclude che siamo meno ricchi e siamo sempre più tristi. La crisi non abbatte solo il PIL, in 3 anni sarebbe raddoppiata la quota di italiani infelici. Allora, cosa hanno fatto a Vanity Fair? Cosa ha fatto Pagnoncelli? Una cosa molto interessante: poiché avevano condotto lo stesso sondaggio qualche anno fa, e precisamente nel 2007, hanno provato a fare le stesse domande nel 2010 per vedere quanto siamo più o meno felici rispetto al 2007. Allora, la differenza è che nel 2007 ben il 46% degli italiani si era definito molto felice, oggi questa percentuale è scesa al 25%. Era abbastanza felice il 37%, la percentuale qui si è un po' ingrossata, siamo al 40%. Poco felice un italiano su 3, il 35%. Giustamente Pagnoncelli ha detto: ma di cosa avreste bisogno per rendere la vostra vita migliore? E qui, allo stesso modo, nel 2007 e oggi, quali sono le differenze? Vabbè, a tutti ovviamente chiediamo sempre una salute migliore, questa è la risposta in più di un caso su 3, il 37% dei casi. Poco meno di un caso su 3 chiedono più soldi, il 29% oggi, erano il 28% nel 2007, quindi dimostrazione che poi la felicità non ha questa correlazione diretta con il denaro, come insegnano anche i proverbi. Soprattutto quello che è aumentato è la richiesta di tempo, perché rispetto al 2007 oggi sono il 15% delle persone che hanno risposto al sondaggio a dire avrei bisogno di più tempo per rendere la mia vita migliore, erano il 12% qualche anno fa. Quindi questa che è la variazione maggiore che si riscontra tra i due periodi, in qualche modo dice che questo momento sembra averci tolto un pochino di tempo a nostra disposizione, forse anche ha reso la nostra vita più frenetica. Allora, vediamo come si fa, visto che abbiamo parlato di un sondaggio, a misurare il benessere del tema appunto della provocazione di Cameron, che poi tanto provocazione non era. Si occupa più di un settimanale, se ne occupa anche l'Espresso. Claudio Lindner appunto dice il PIL non basta più, servono nuovi indici per misurare il progresso, e non lo dicono solo Cameron e Sarkozy. Naturalmente voi sapete che di solito per misurare il benessere economico di uno Stato si usa il prodotto interno lordo, il famoso PIL. Ecco, il PIL naturalmente, come sanno gli stessi economisti, è bugiardo, cioè riferisce solo delle variazioni appunto di natura economica, non ci può restituire, che so, la bontà dei servizi o la bontà del rapporto con la pubblica amministrazione o altri elementi che pure sono importanti nella vita quotidiana dei cittadini. Ci sono degli indici però in elaborazione un po' in tutti i paesi del mondo o da parte di organismi sovranazionali, proprio per sforzarsi di misurare la qualità della vita nel senso proprio del benessere. Sarkozy, quando ha istituito qualche anno fa la commissione che ha fatto presiedere a Jean-Paul Fitoussi, che è un economista, ha detto che bisogna trovare indicatori complementari al PIL, perché l'aumento continuo della precarietà nei paesi ricchi, la crescita delle disuguaglianze vanno tenute in maggiore considerazione. Allora, cosa succede? Naturalmente che il prodotto interno lordo può magari espandersi grazie al lavoro precario, però di certo il lavoro precario non aumenta il tasso di benessere della popolazione, quindi la gente è più scontenta. Allora il PIL in questo caso è, come si sa, bugiardo. L'ultima sortita appunto della scorsa settimana, ricorda Lindner, il primo ministro britannico David Cameron, secondo cui il benessere dipende anche dalla cultura e dalla felicità dei cittadini. Quindi proprio adesso che l'economia inglese sta al tappeto in pieno regime di austerity, il giovane Tory di Downing Street ha chiesto alla responsabile del suo istituto di statistica, che si chiama Jill Mateson, di procedere a un censimento della felicità britannica. Ci ha provato anche Sarkozy. Poi la commissione Fitoussi è arrivata a elaborare non proprio dei criteri, ma delle raccomandazioni. Ha detto bisogna considerare redditi e consumi delle famiglie, non tanto la produzione, si deve guardare alla distribuzione del reddito, bisogna estendere la misura delle attività non di mercato, come possono essere appunto i servizi in famiglia, la cura degli ammalati, la cura degli anziani, e poi la sostenibilità ambientale per misurare la crescita al netto della distruzione di risorse e naturalmente i rischi del cambiamento climatico. C'è poi un indice che assegnerebbe, diciamo, alla Svezia, tra i paesi, tra un set di una decina di paesi, la prima piazza. Il punteggio è da 1 a 10, la Svezia prende un bel 7,23, seguita dalla Danimarca 6,88, l'Italia risulta mal piazzata con il 4,85, quindi insufficiente. Però peggio di noi starebbero, secondo questo indice, la Spagna, che sta un po' più indietro a 4,51, poi gli Stati Uniti sotto il 4 addirittura, e la Grecia a neanche 3,5. Questo è uno dei modi, uno degli indicatori per valutare la felicità di una popolazione. Naturalmente, come vi dicevo all'inizio, tutto questo prende le mosse dal nostro magazine 24, che trovate con il Sole 24 Ore. È l'ultimo numero dell'anno ed è il numero, come era stato annunciato, dedicato alla felicità. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, come vi avevo promesso, come vi avevo annunciato, prendiamo il nostro magazine, che si chiama appunto 24, ma non è la ricerca di un gioco di parole a tutti i costi. Lo trovate in edicola con il quotidiano, con il Sole 24 Ore, da venerdì. È l'ultimo numero dell'anno ed è dedicato alla felicità. Sapete che 24 sceglie sempre un tema, quest'anno poi era stata fatta un'operazione particolare, ce l'aveva spiegato la stessa responsabile Fernanda Roggero, di selezionare già all'inizio dell'anno i temi che avrebbero poi scandito le uscite di 24. Allora, Il tema di questo mese è la felicità, come appunto sapete, ne abbiamo lungamente parlato nella prima parte. La presentazione di 24 apre proprio con questa domanda: siamo felici? Non lo sappiamo in realtà. Comunque lei prosegue dicendo: siamo un po' incupiti dalla crisi, probabilmente siamo più fragili, siamo più incerti, ma allora troviamo uno spazio dove coltivare energia e speranza nel futuro? Noi abbiamo provato a chiederlo a gente qualunque incontrata per le strade di Milano. Sì, loro sembrano essere felici perché si accontentano in alcuni casi, ma più spesso perché il perimetro del benessere che si sono posti coincide con obiettivi raggiungibili. Felicità è semplicemente anche sentirsi bene, feeling good, dicono gli inglesi. E poi ci sono tutti i personaggi che via via vengono segnalati nel numero di 24. Naturalmente ora ne diamo solo una lettura superficiale. Vi segnalo però questa storia molto carina di questo paese di 4.000 anime, si chiama Corchiano, un paese del Lazio, è stato premiato come il comune più virtuoso d'Italia. La comunità, tra l'altro, ha deciso di aderire a un progetto che è di largo respiro per il futuro, quindi ricicla l'85% dei rifiuti, ha bonificato completamente una forra che serviva prima da discarica, ha organizzato gli orti urbani, mercatini del riciclo, e le nonne si impegnano a conservare l'olio della frittura, perché con l'olio della frittura fanno andare, facendone biodiesel, il pulmino, lo scuolabus, il pulmino della scuola. Questo è l'esempio di Corchiano. E allora i casi di felicità, di benessere, forse benessere è una parola meno impegnativa di felicità, sono poi raccontati nelle pagine di 24. Io invece dalle pagine di 24 prendo un esempio di realizzazione molto curioso nella rubrica Trendsetter, che è stata affidata a Sasha Carnevali. Si legge questo: un cacciavite per Jane. Qual è il benessere che ha raggiunto la signora o signorina Jane? Non so se la cosa poi sia precisata nel prosieguo dell'articolo. Era particolarmente a disagio nel ricevere in casa gli artigiani che si occupano delle manutenzioni più classiche, appunto, in ambito domestico, quindi l'idraulico, il falegname o chi volete voi, insomma, il mobiliere, tutti questi che sono solitamente maschi. E ha fatto questa considerazione: che in realtà la maggior parte delle donne single si sentirebbe meno a disagio se ad aggiustare i loro lavandini e a sistemare le loro prese salvavita ci fosse qualcuno che risponde al nome di Maria. Lei se ne è resa conto in prima persona quando ha dovuto ristrutturare la sua prima casa, e racconta appunto a Sasha Carnevale: mio padre mi aveva insegnato a eseguire delle piccole riparazioni, però non ero certo in grado di rifare un impianto elettrico. Allora mi sentivo vulnerabile all'idea di avere intorno degli uomini che non conoscevo, così ho deciso di creare un'impresa di artigiane. Ho cominciato nel 2006 con 4 donne e ora sono 45. Quello che l'imprenditrice 31enne ama di questo fai da te è vedere subito i risultati, che è una gratificazione istantanea. Non sente alcuna mancanza, informa sempre 24, della precedente carriera che lei aveva intrapreso nella pubblicità. Joe gira per Manchester, per Londra, facendo sopralluoghi preventivi, gira naturalmente in tenuta da lavoro, quindi tuta, scarponi rinforzati, grembiale da carpentiere, e ha chiamato la sua azienda Home Jane, cioè donnina di casa, proprio per posizionarla in modo preciso. La clientela è infatti per la maggior parte composta di donne, tipicamente professioniste single o divorziate, qualche volta anche invece non single, stufe di dover aspettare che un fratello o il compagno si decida a montare uno scaffale. Quello che sorprende un po' la chiusa di questo breve articolo di Sasha Carnevali, perché dice: non mancano i clienti maschi che seguono volentieri anche i corsi di bricolage, che si chiamano in un modo molto divertente attrezzi per terrorizzati, corsi che vengono appunto proposti dalla stessa Home Jane. Anche loro in realtà non ricorrono a questo per motivi, diciamo, di poter conoscere delle signore o signorine, ma invece per quasi lo stesso motivo per cui sono le donne single a cercare Home Jane. Si sentono meno minacciati, riferisce infatti Sasha Carnevali, se a insegnare i trucchi del bricolage, i trucchi del mestiere, sono delle signorine. Non si sentono minacciati, meno minacciati nella loro incolumità, naturalmente, quanto paradossalmente nella loro virilità. E allora, non sappiamo invece se sia felice o quantomeno abbia un sufficiente grado di benessere la persona che nel film The Social Network è chiamata Erika Albright. Ne avevamo già parlato settimana scorsa, vi ricorderete, questo film è stato molto molto commentato dai vari magazine e quindi ne abbiamo dato segnalazione anche qui a Magazine 24. Chi è Erika Albright? Se avete visto il film sapete che è la ex fidanzata di Zuckerberg, cioè quella che pianta Zuckerberg quando lui non è ancora il miliardario che è attualmente. Quindi anche noi un po' così per fare gli spiritosi ci eravamo chiesti chissà se adesso poi questa signorina si è pentita della scelta un po' precipitosa fatta all'epoca. In realtà c'è della gente che la sta cercando, cioè sta cercando di identificarla, lo riferisce Vanity Fair. In rete è cominciata la caccia alla ragazza che, scaricando Zuckerberg all'inizio, dà involontariamente origine proprio al social network Facebook. C'è quindi questa stringa di parole Erika Albright, che è una delle ricerche emergenti sui vari motori di ricerca. In rete c'è anche un sito, erikaalbright.com, che si autoproclama sito dell'ex di Zuckerberg, in realtà è un dominio in forma Vanity Fair registrato da un signore del Minnesota. Però ci sono vari gruppi che implorano Erika di accettare la richiesta di amicizia dell'ex che Zuckerberg, ormai ricco e famoso, fa alla sua ex fidanzata. Per quanto riguarda il personaggio reale Zuckerberg, quello rintracciabile, ha smentito questo tipo di relazione, è un personaggio assolutamente inventato, io ero già con la mia attuale fidanzata. Però c'è un libro che ricostruirebbe proprio questa versione di uno Zuckerberg piantato dalla ragazza e che quindi poi ha dato origine al social network, che ha dato oggi anche un film, oltre a molto molto benessere al suo creatore. E con questa segnalazione si conclude la puntata di Magazine 24. Grazie a Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza, grazie a Viola Bottoni che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna come sempre sabato prossimo. Buona domenica a tutti.